capitano, che hai negli occhi il tuo nobile destino. Pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino? Capitano, che hai trovato principesse in ogni porto. Pensi mai al rematore che sua moglie crede morto. Capitano, le tue colpe pago anch'io coi giorni miei, mentre il mio più gran peccato fa sorridere gli dèi. E se muori è un re che muore, la tua casa avrà un erede. Quando io non torno a casa, entran dentro fame e sete. Capitano, che risolvi con l'astuzia ogni avventura, ti ricordi di un soldato che ogni volta ha più paura, ma anche la paura in fondo mi dà sempre un gusto strano. Se ci fosse ancora mondo, sono pronto, dove andiamo?